strati si affacciano, un nuovo sguardo al mondo, guardarsi dentro e cercare i giusti passi da compiere. I cambiamenti del corpo, introspettivi momenti, i desideri, i valori, sono tutti da scoprire. Identità, il proprio posto nel mondo, la propria strada da prendere, consolidare se stessi. Cambiamenti del corpo, introspettivi momenti, i desideri e i valori sono tutti da scoprire. Ridefinire i rapporti con la famiglia e gli altri, nuovi interessi affiorano, provare dei sentimenti. La propria identità, il proprio